Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. C'è una cosa che tutte le persone che non hanno mai utilizzato un motociclo o una motocicletta, insomma una moto, ma vale anche il cinquantino semplice, da giovani o da adulti, ecco, le persone che non hanno mai utilizzato un mezzo su due ruote, che appunto esclusa la bicicletta, una cosa che non ha mai sperimentato è il cambio di stagione sulla pelle. Cioè a un certo punto arriva un giorno verso la fine dell'estate, che però magari non è nemmeno la fine dell'estate, magari è il 20 di agosto, che ancora ora di fatto è estate praticamente piena, manca un mese alla fine, eppure c'è qualcosa che impercettibilmente nell'aria cambia e lo percepisci sulla faccia, sulle mani o sulle braccia se hai una maglietta con le maniche corte. E quella roba lì, se hai una Vespa, se hai una moto, se hai un Ciao, la sperimenti direttamente. E oggi parliamo di quello, parliamo di due storie diverse, la storia di Francesco e la storia di Alessandro, che parlano di come da giovani, soprattutto da giovani, i mezzi di trasporto sono fondamentali e di come alcuni mezzi di trasporto diventano degli oggetti di culto. È il caso di Francesco e della sua Vespa 50L, è il caso invece di Alessandro e del Ciao, che non è suo ma in qualche modo riesce a rendere suo. E in questa ultima puntata di Meglio Di della settimana e della stagione anche, di fatto, raccontiamo questo, raccontiamo come i primi mezzi di trasporto ti segnino in qualche modo il resto della tua esistenza. Voi continuate a scrivere le vostre storie e mandarle a voi siete qui @radio24.it, perché noi stiamo partendo con una nuova stagione, abbiamo già un archivio bello pieno, però sapete, andiamo avanti fino a giugno, fino a luglio, e quindi di storie ne abbiamo sempre bisogno. Voi siete qui @radio24.it, ascoltatevi questa puntata, passate un buon fine settimana e poi ci sentiamo finalmente in diretta lunedì. Avevo 16 anni. Frequentavo il liceo scientifico di Treviso, non l'unico, ma quello scientifico per davvero. L'altro era il collegio vescovile, quello che noi pensavamo fosse il rifugio dei figli di papà. Quelli abbastanza danarosi da poterselo permettere, senza potersi invece permettere di riuscire a studiare con profitto nella nostra scuola. Panzane, ovviamente. Fatto sta che il liceo che frequentavo stava quasi dietro casa mia. In bici ci mettevo 10 minuti. Ogni giorno facevo la strada con dei compagni di classe. Generalmente io e un altro in bici e un terzo motorizzato. Oggi non so, ma negli anni 90 essere motorizzati per un adolescente era quasi meglio del sesso. O quantomeno era considerato un mezzo più o meno sicuro per arrivare al sesso. Panzane, ovviamente. Ad ogni modo, i miei genitori non volevano comprarmi il motorino. Avevano paura che succedesse qualcosa e io ogni giorno rompevo le palle al mio compagno di classe motorizzato finché lui non mi prestava la sua Vespa. Un vecchio Vespino 50L, scalcagnato e rigato, meravigliosa, sinuosa come una bella ragazza, rumorosa come una canzone rock, piccola, affidabile e con le marce. La cosa più importante della Vespa 50L, come di tutte le Vespe disegnate da Corradino d'Ascanio, è il fatto che, a differenza della Lambretta, abbia una scocca portante. La Lambretta invece era sostenuta da tubi, e questa è una tecnica presa in prestito dall'aeronautica. Quel giorno di novembre era una bellissima giornata autunnale, sole, temperature mite, un po' d'aria ma piacevole. Inforco la Vespa e giro l'angolo verso il panificio. Ogni volta io cercavo di dare un senso a quel giro, e andando a comprare una lattina di coca o una pizzetta che poi mi avrebbero rovinato il pranzo. Il panificio era dall'altra parte della strada, sicché, come al solito, ho rallentato, ho girato la Vespa perpendicolarmente alla strada e ho cominciato ad attraversare spingendola a piedi. Non ho sentito l'impatto. Ho più che altro avvertito, qualche millisecondo prima, una presenza. Ho fatto un volo spettacolare, chi l'ha visto me l'ha raccontato mentre lottavo per non svenire, mentre con la gamba rotta aspettavo l'ambulanza. Un'auto che non avevo visto mi era letteralmente planata sulla gamba sinistra. Ho ricordi confusi di quel momento, ma uno in particolare è vivido. Mentre ero in aria, ho visto la Vespa che, rovesciata di lato, scivolava sull'asfalto. Quando poi un professore della mia scuola di ritorno a casa mi ha aiutato ad alzarmi, non potei fare a meno di accorgermi che, nonostante l'impatto, nonostante quei metri sull'asfalto, nonostante la miscela uscisse dal serbatoio, la Vespetta era ancora accesa. Un mese di gamba in trazione, la convivenza con altre 5 persone nella stessa stanza d'ospedale, l'umiliazione di padella e pappagallo, un'operazione alla tibia, un tutore esterno per altri 3 mesi, forse 4, non ricordo. Da quel giorno, da quel momento, mentre mi rompevo la tibia e ancora non sapevo che avrei sofferto molto, io decisi che avrei dovuto possedere una Vespa 50L. Se non proprio quella del mio amico, quantomeno una di quel modello e possibilmente di quell'anno. I miei si risolsero a comprarmi un motorino. Non vollero comprarmi una Vespa usata. Era vecchia e poco sicura. Io però volevo quella, ma nel frattempo mi adattai. Passavano gli anni, soldi non avevo mai. Andavo all'università e non avevo tempo di lavorare. Fino a quando, al terzo anno della facoltà di disegno industriale, non dovetti scegliermi uno studio di design per fare il mio internship, il mio tirocinio. In quello studio ho lavorato sodo e alla fine, anche se il tirocinio avrebbe dovuto essere senza compenso, mi misero in mano un assegno di 500 euro. In quegli anni ero diventato un appassionato della storia della Vespa. La studiavo all'università per gli esami di storia del design e per piacere personale. Ne ero ossessionato. Quel giorno di novembre per me era stato come se una donna amata mi avesse tradito e ora non facevo altro che pensare a come riconquistarla, per stare con lei per sempre, col cuore ferito e con il ricordo del tradimento, ma comunque per sempre. Tutti desideravano le Vespe 125, che nel frattempo erano tornate di moda, ma io volevo una dannata e meravigliosa Vespina 50L, con i gommini del manubrio bianchi, le leve a punta, il faro tondo, con il cavalletto che bisogna accompagnare, se no schizza verso l'alto e rovina il predellino, con i cavi dell'acceleratore che ogni tanto si stacca e devi tirarlo fuori da sotto la sella per accelerare direttamente col cavo in mano, con il freno davanti che è meglio non usare mai, soprattutto in curva, con un sacco di rifetti e di cose meravigliose che messe insieme costituiscono qualcosa di vivo, come una persona. Quando si compra un oggetto anziano, antico, ha sicuramente delle cose che non vanno bene, non te ne accorgi subito, te ne accorgi usandolo. E quando sei a 50 km da casa e si stacca il cavo dell'acceleratore, può essere divertente o anche no. Quei 500 euro erano pochi. Ho dovuto aggiungerne altri, risparmiando per 6 mesi e sacrificandomi. Ogni giorno guardavo le pagine di eBay, trovando sempre solo prezzi troppo alti o modelli che non volevo. Poi, un giorno, un pazzo di Siena me l'ha venduta proprio per la somma che avevo raggranellato, compresa spedizione. Ora sono tranquillo. Ho chiuso un conto con il mio passato. È solo un oggetto, ma per me ha significato mesi e mesi di sofferenza e frustrazione. Oggi, correndo su quel vespino, non capita mai che non ripensi a quei giorni, a quei mesi di me, sedicenne, senza poter camminare, e a quella Vespa, riversa sull'asfalto. Con la miscela che esce dal serbatoio e quel motore che scoppietta, ancora, quasi a dire, beh, tutto qui. Quando avevo 17 anni mi sono rotto un braccio. Avevo un anno più di Francesco e me lo sono rotto non cadendo da una Vespa, ma da un muretto alto un paio di metri. Era il 28 luglio del 1992. Come tutte le estati, l'ultimo sabato di luglio o il primo di agosto, i miei genitori, dopo esserci venuti a prendere in montagna, me e mia sorella, ci preparavano e si partiva tutti per il mare. La destinazione era sempre quella, Marina di Campo, Isola d'Elba. Non c'è un modo per descrivere come io aspettassi quel momento. Iniziavo ad assaporarlo ai primi di maggio, quando la pianura padana novarese inizia a odorare di riso maturo. Aspettavo la fine della scuola come una prima tappa verso quell'obiettivo finale. A luglio poi, visto che faceva troppo caldo a casa, io e mia sorella venivamo spediti in montagna insieme a mia nonna. C'erano un sacco di ragazzi della mia età. C'era il fiume, c'erano le giostre, c'era il minigolf. Ma niente, per me quello era solo un mese di passaggio. Il 24 arrivava il mio compleanno e io sapevo che ormai mancava poco. Poi, quel venerdì, i miei arrivavano in montagna, ci caricavano in auto e si tornava a casa. La partenza per il mare era preparata meticolosamente. Il traghetto da Piombino attorno alle 4 del pomeriggio ci obbligava a partire alle 8 del mattino perché non si sa mai cosa può succedere per strada. il primo pezzo di autostrada, sempre deserto, anche i primi di agosto. Quello che da Gravellona a Toce va ad Alessandria e poi a Genova. Quello costruito da un ex ministro di Novara per far arrivare al mare i suoi concittadini, dicevano. E poi finalmente il mare, la Liguria, la Toscana, i camini altissimi di Piombino che guardavano l'Elba e l'odore di nafta del traghetto. Quell'estate era lo stesso, le 3 settimane migliori dell'anno. Eravamo pronti a partire. La macchina era carica. Io e mio padre ad aspettare in strada mia mamma e mia sorella che stanno terminando di prepararsi. Il cancelletto che entra nel cortile di casa, davanti c'ha parcheggiata la smagliante BMW 520 di mio padre. E questo cancelletto ha un tettuccio per riparare dalla pioggia. Ecco, quel tettuccio per me ha lo stesso valore dell'auto che Francesco non vede arrivare e che lo fa volare in aria con la Vespa. In un attimo di follia decido che io voglio sedermici sopra quel tettuccio per aspettare mia mamma e mia sorella. Mio padre esce di casa, mi dice: cosa ci fai lì, vieni giù. Io aspetto 30 secondi per non fargli capire che scendo perché lui me l'ha ordinato. Poi mi spingo sulle mani e appoggio i piedi sul muretto per puntellarmi e cadere in piedi, no? Ammortizzando con le ginocchia. Quello però è un tettuccio, non è un muretto. Quindi, quando i talloni cercano un appoggio, non lo trovano e finiscono arroteando sotto il tettuccio. Col risultato che la mia testa pesa più del sedere e io finisco dritto per terra da 2 metri. Non ricordo come accadde e non ricordo nemmeno il dolore. Mi ricordo però che appena cercai di rialzarmi, il mio braccio destro non spingeva sul terreno e io capii che quello non sarebbe stato il giorno in cui saremmo partiti per il mare. Andiamo al pronto soccorso e scoprono che ho una frattura scomposta dell'omero. Rimango in ospedale 10 giorni, alla fine dei quali, dopo innumerevoli dolorosi tentativi di rimettermelo in sesto, mi operano e me lo aggiustano. Al mare ci andiamo comunque, ma dopo 2 settimane da quel 28 luglio. Solo che io ho un intero busto di gesso che serve per bloccarmi il braccio e la spalla. Eppure, nonostante tutto, per me andare in vacanza, andare al mare ancora oggi, a distanza di 20 anni, continua a essere andare là, anche se non ci vado più. Fare quell'autostrada semideserta anche ad agosto. Se penso all'estate, a me viene in mente Marina di Campo. Non so se il dolore segni più delle gioie, se abbia un significato così spaventoso e profondo che non riusciamo più a dimenticarlo. Però io quel 28 di luglio lo ricordo come un momento fondamentale nella mia vita. Ain't no spaceman, ain't no diver, ain't no steam train driver either. The boy me wouldn't know me at all if I kicked my ball over my wall. Ain't no spaceman, ain't no diver, ain't no steam train driver either. The boy me wouldn't know me at all if I kicked my ball over my wall. Io ringrazio Alberto da Borgomanero perché è da quando ho pensato questa puntata, da quando l'ho scritta, che mi domando come diavolo si chiamava quel ministro novarese che fece quell'autostrada, la Gravellona Toce Alessandria, Alessandria Genova. Nicolazzi si chiamava ed era di Gattico. Grazie. Ma Nicolazzi era anche quello delle lenzuola d'oro dei treni, o sbaglio? No? Chi era quello delle lenzuola, storia delle lenzuola d'oro? Dai, se ve lo ricordate, 349-238-6666, le lenzuola d'oro dei treni. Ho ripetuto 4 volte la stessa cosa, non so dire di più, mi ricordo questo titolo. Arrivato altri messaggi. Guarda, questo messaggio è proprio preciso, anche se non mi dice chi è. A proposito di una sofferenza che ti lega indissolubilmente a qualcosa. Vedere la mia Juve in Serie B era amore e sofferenza insieme, e lì nei peggiori campi di calcio italiani, nel peggior momento della storia della mia storia bianconera, che capisci quanto è grande questo amore. Fino alla fine, forza Juve, esattamente questo. 349-238-6666, c'è un messaggio di Giuseppe sul profilo Facebook, che è Voi Siete Qui, Radio 24, che dice: come Francesco, sono caduto anch'io dalla Vespa di un mio amico e adesso possiedo una 50L blu. Pronto Francesco? Ciao Matteo, ciao a tutti. Come stai? Abbastanza bene, grazie. Di che colore è la tua Vespa? È blu, forse siamo la stessa persona. Sì, lui si chiama Giuseppe però. Vabbè. Senti, Francesco, visto che fai il designer, tu fugaci qualsiasi dubbio. Non lavori per la Piaggio tu, ovviamente. No, okay. No, perché? Perché in realtà è una domanda retorica, perché conosco molto bene, anche se non possiedo una Vespa di quel tipo lì, l'amore sconsiderato per quell'oggetto da parte delle persone che ce l'hanno e per i cultori in generale, quindi non è uno spot, è proprio una roba che ti viene... Ce l'hai nel garage? Sì, cioè, assolutamente. D'inverno non la usi? Non la uso, però la accendo regolarmente, perché sennò il motore poi si ottura, va tenuta un minimo con cura. La uso solo d'estate, però diciamo che me la coccolo anche d'inverno. Scusa, da quanti anni ce l'hai quindi? Allora, dal 2006. Vabbè, quindi sono 7 anni quest'anno. Sì. Cioè, è il tuo, no, non è il tuo primo mezzo di locomozione, perché dicevi che i tuoi te l'hanno comprato un motorino. No, no, sì, infatti ho avuto uno scooter, avevo 17 anni, ma diciamo che nel mio cuore era un mezzo di ripiego. Non era quello che desideravo realmente. Ma tu dei giri, l'ho amato anche quello, ma in maniera diversa. Questo pazzo di Siena, guarda, mi piace questa cosa del pazzo di Siena, perché io che ho un po' una mania, un po' di volte l'ho raccontato, anche se non devo comprare niente, passo del tempo sulle app di auto e moto usate o sui siti di moto usate, perché vabbè, perché ognuno ha le sue ossessioni, e ci sono dei mondi chiaramente dietro a chi vende quell'oggetto, perché lo vende, e quindi questo pazzo di Siena che te la vende la cifra che tu chiedevi, dimmi qualcosa di più di lui, ti prego. Ma niente, l'ho trovato ovviamente su uno di questi siti, era eBay, l'ho sentito per telefono e niente, lui mi diceva che aveva questa collezione sterminata di Vespe e questa era un doppione. E quindi sono tutti così, sono tutti così. Tutti quelli che hanno Vespe o vecchie motociclette, perché guarda, ce ne ho 10 io e non so più, ne ho presa un'altra più vecchia e non so più dove metterla. Esatto, era esattamente così. La do via così a un prezzo un po'. Scusami, una curiosità, quanto vale adesso una Vespa così? Ora guarda, non sono più aggiornato perché il mio scopo l'ho raggiunto, certo. Ma penso che una Vespa conservata del 73, un Vespino 50, possa almeno valere un migliaio di euro o qualcosina di più. Mi sa qualcosa di più. Che tipo di designer sei, Francesco? Cosa disegni? Allora, io sono un designer di prodotto, quindi ci occupiamo sì di arredamento, lampade, complementi d'arredo. Ma lavori per uno studio o per un'azienda? Lavoro per uno studio e sì, sono diciamo socio di questo studio. Ah, pure? Sedi. Sì. Ma scusa, ma sei giovanissimo, cioè hai 31 anni? Beh, sì. Oddio, sai, guarda, la concezione di quanto una persona possa essere giovane... Beh, lo so, guarda, lascia stare, certo. Esatto, però sei anche veneto, insomma, quindi non si scherza sul cominciare a lavorare e sul farlo in modo sodo. Scusami, sì, poi ti devo lasciare, Francesco. Sì. Dimmi l'ultima cosa che hai disegnato, che disegnavi stamattina, cosa stavi lavorando? Allora, guarda, adesso stiamo lavorando a tutto quello che presenteremo a Milano durante il Salone del Mobile ad aprile. Quindi, sì, un bel po' di cose, non una cosa sola... per volta. Ok, quindi venite a Milano ovviamente al salone. Sì. Francesco, ti ringrazio e in bocca al lupo per tutto. E crepi. Ciao, buona giornata. Grazie, ciao. Ciao, grazie. I could try, say I'm sorry, but that won't be quite enough to let you know. And it just won't let up. Voi siete qui. Erano 3 o 4 giorni che lo vedevo. Un ciao verde, bello, col variatore. Qualcuno lo aveva abbandonato lì, appoggiato a un palo. Anomalia del paesaggio. Avevo 16 anni, una gran voglia di avere un motorino e una quantità inversamente proporzionale di denaro nelle tasche. Mia madre, poi, figurati, ai miei timidi accenni di comprare un motorino, sentenziava il motorino è pericoloso, pensa a studiare. La curiosità per quell'oggetto abbandonato aumentava sempre di più. Ogni volta che portavo giù il cane, andavo subito a vedere se c'era ancora. E c'era, sempre. E la mente dei miei 16 anni volava e pensavo, sicuramente rubato. Rubato e abbandonato lì per mancanza di benzina. Ma certo, è appoggiato al palo. Il ladro, nella fretta, non si è certo dato la briga di metterlo sul cavalletto. Ho sempre avuto la passione delle moto, e tant'è che ne ho ancora una, cioè attualmente una